dolcemente, facilmente, ogni fede passerà e felice attor sarà il mio cuore, tutto bene intorno a me, perciò amo il fischio, voglio fischiettare, vi farò imparare. Adoro il fischio, voglio fischiettare, state ad ascoltare. Questo fischietto viene da lontano, dai paesi dove anni pura giù. Semplice, facile, ogni pena mi posso dare, in fondo al cuore mi dà un gran cuore, e tutto è bello intorno a me, perciò amo il fischio, voglio fischiettare, mi farò imparare. Thank you.